Decima stazione. Gesù è spogliato delle sue vesti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni. I soldati poi presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato e la tunica. Ora, quella tunica era senza cucitura, tessuta tutta ad un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva la scrittura: si sono divise tra loro le mie vesti, e sulla mia tunica han gettato la sorte. Caro Gesù, ti hanno spogliato delle vesti. Sei disonorato davanti agli occhi della tua mamma, dei soldati, della folla. Non hanno avuto alcun rispetto. Purtroppo anche oggi, in tante famiglie, non c'è il dovuto rispetto per te, per la tua santità. Non si rispettano la tua parola, i tuoi sacramenti, la domenica come giorno di Dio. Signore, illuminaci e aiutaci a non commettere più sacrilegio. Ispiraci a voler vestire le nostre famiglie con l'umiltà, la pazienza, l'amore, la santità e con ogni virtù. Rivestici di nuovo con l'abito dell'amore, dell'umiltà, della santità. Signore, attraverso la tua grazia, fa che possiamo camminare speditamente sulla via della conversione, confessandoci bene e amando ogni giorno di più la tua parola e i tuoi sacramenti. Fa, o Gesù, che da oggi per noi sia l'inizio di una nuova vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dolce Madre dell'amore, fa che il grande tuo dolore io lo senta pure in me.